Pronto Eleonora, buongiorno. Sì, buongiorno. Come sta? Bene, grazie. Senta, mi racconta questa cosa. Innanzitutto, da quanto tempo... No, facciamo un passo indietro. Lei che cosa fa nella vita, Eleonora? Io insegno. Insegno all'Istituto Tecnico Commerciale Battisti di Fano e sono iscritta nell'albo degli avvocati di Pesaro Urbino. Benissimo. Quindi, diciamo, possiamo rubricarla alla categoria persone normali, Eleonora, giusto? Sì. Certamente sì. Benissimo. Però, e tra l'altro, come si vede nel video che caricheremo appena, forse l'abbiamo già caricato sul profilo Facebook del programma, la signora Eleonora, tutti i giorni, da quanto Eleonora? Tutti i giorni, da 3 anni a questa parte. Fa un bagno a mezzogiorno? Dalle 11 a mezzogiorno, talvolta anche all'1 e mezza, dipende dall'orario, dagli impegni, da fine orario lavoro. Certo. E nelle acque di quale mare? Adriatico, ovviamente? Del mare del Lido di Fano, Lido 1 precisamente. Lido di Fano, perché lei abita poco distante, immagino, dal sì, Lido. Sì, esatto, a pochi metri, sì. Se nasce un'abitudine come questa, no? Sì. 3 anni fa, abbiamo detto. Sì. Nasce per un motivo, immagino, Eleonora. Il motivo è semplice. Prima di tutto è stata una sfida con altri nuotatori autunnali e invernali che ci sono lì a Fano. Esiste un gruppo storico. Ma cos'è, un club? È un circolo? No, non è un club, non è un circolo, è un gruppo di persone, giovani e anziani, che praticano questa attività, questa esperienza del bagno invernale. Però non tutti i giorni, immagino. Solo pochissimi, più che altro anziani lo facevano, adesso purtroppo non lo fanno più, mi hanno passato il testimone e sono io a continuare questa pratica sportiva. Ma quindi lei va lì, mi perdoni Eleonora, lei va lì da sola, magari dopo che ha finito l'insegnare oppure insomma prima di tornare a casa, e in macchina c'è sempre necessario per un bagno? Esatto, io mi carico tutto, mi preparo la mia borsa con tutto l'occorrente e lo carico in macchina e dalla macchina lo trasporto nel mio capanno. Dove nel capanno naturalmente provvedo a tutte le attività di preparazione. Cos'è il capanno esattamente? Il capanno del Lido, è una cabina. Una cabina, perfetto. Una cabina.